E stiamo seguendo un po' quello che succede dentro e fuori Ponte Galeria. Prima abbiamo ascoltato una corrispondenza da un recluso dentro Ponte Galeria che ci ricordava, insomma, che al di là di quello che viene detto sui media ufficiali, le proteste all'interno del CIE di Ponte Galeria sono ancora in corso. Adesso siamo in collegamento con fuori il CIE di Ponte Galeria. Ciao. Ciao, ciao a tutte e tutti. Allora, dici un po' come va, quanti siete e via dicendo. Sì, allora, qua il presidio è bello animato, siamo più di un centinaio tra compagni e compagne, è un presidio solidale per la protesta, appunto, come dicevi prima, che sta ancora andando avanti e stanno tutti fuori e in sciopero della fame, a differenza di quello che dicono tutti i giornali. Sappiamo che no, da dentro ci stanno sentendo, ci riescono a ascoltarci, non riusciamo, cioè ovviamente stanno fuori nei cortili, per cui non li vediamo purtroppo, e quindi siamo qua. Persistiamo nella solidarietà che portiamo a tutti i detenuti del CIE in lotta. Stanno un po' di guardie che ovviamente stanno un paio di camionette che bloccano, stanno lì davanti all'entrata, eccetera. Però la situazione, insomma, abbiamo amplificazione, continuiamo a parlare con loro, riusciamo a parlarci anche in diverse lingue, quindi insomma siamo contenti che comunque da fuori sta arrivando anche sotto la pioggia e il freddo il nostro saluto solidale. Volevo quindi ricordiamo, insomma, a chi ci sta ascoltando che può ancora venire lì a Ponte Galeria, perché insomma tutto è appena iniziato e ci sarà, insomma, ancora per un pochetto, no? Sì, saremo qua sicuramente per un'altra ora, siamo qua, e quindi sì, invitiamo tutte e tutti a raggiungerci e, insomma, a portare la loro solidarietà a questa lotta importante che stanno facendo in questi giorni a Ponte Galeria. Senti, ma una notizia invece di quella che è la parte femminile del CIE di Ponte Galeria, ne avete? No, al momento, cioè, almeno io non ce l'ho notizie dirette. Sappiamo quello che un giorno e mezzo fa, no, due giorni fa è successo, no? Della protesta che c'è stata dopo il tentato suicidio di una tunisina alla quale era stato rifiutato il permesso di soggiorno per motivi umanitari, e da lì c'è stata una protesta forte, le sue compagne l'hanno aiutata a non compiere questo gesto, e da lì però è nata una protesta molto forte del femminile. Al momento il femminile comunque nel cortile non ci sono, diciamo, perché è l'unica parte che si riesce un po' a vedere. Adesso ricontrolleremo se dopo averci sentito così ci stanno delle novità, però da dentro io al momento non ho altre informazioni. Va bene, io se non, insomma, non ci sono degli altri aggiornamenti ti saluterei, casa ci sentiamo fra un po' per capire, sì, come va. A voglia, ok, ciao.